Il terzo anello ad alta voce. I Buddenbrock di Thomas Mann. Per un dente. Il senatore Buddenbrock era morto per un dente, si diceva in città. Ma corpo del diavolo, di un dente non si muore. Aveva avuto dolori, è vero. Brecht gli aveva spezzato la corona e poco dopo il senatore era caduto per la strada. Si era mai sentita una cosa simile? Ma questo era indifferente. Questo era affar suo. La prima cosa da fare era di mandare corone, grandi corone, corone costose, corone con le quali si poteva farsi onore, che si sarebbero menzionate nei giornali e dovevano far capire che venivano da gente seria e danarosa. Egli giaceva nel mezzo della stanza larga e luminosa, dalla quale erano stati tolti i mobili, nella cassa imbottita di seta bianca, vestito, coperto di seta bianca, dentro un profumo acuto e inebriante di tuberose, di viole e di 100 altri fiori. Alla sua testa, in un semicerchio di crespo nero, sorgeva il Cristo benedicente di Thorvaldsen. E venne il giorno della sepoltura. La cassa di metallo fu chiusa ermeticamente e coperta di fiori. Le candele ardevano nei candelabri. La casa si empì di gente e, circondato dai dolenti di città e da quelli venuti di fuori, il pastore Pringsheim stette solennemente a capo della bara, con la testa espressiva sul largo collare come sopra un piatto. I cavalli del carro funebre, tutti parati di nero, sicché se ne vedevano soltanto gli occhi irrequieti, tenuti a mano da 4 valletti vestiti di nero, si misero lentamente in moto. I soldati si accodarono seguiti dalle carrozze. Christian Buddenbrock col pastore montò nella prima. Seguì il piccolo Johan insieme a un ben pasciuto parente di Amburgo. E lento, lento, lungo, triste e solenne, il corteo funebre di Thomas Buddenbrock si avviò, mentre alle finestre il vento faceva schioccare le bandiere a mezz'asta. Gli impiegati e gli scaricatori di grano seguivano a piedi. Quando per le viottole del cimitero il feretro, seguito dalla schiera dei dolenti, passò davanti a croci e statue, a cappelle e salici piangenti, e si avvicinò alla tomba di famiglia dei Buddenbrock, la compagnia d'onore era già sull'attenti e presentò un'altra volta le armi. Dietro un gruppo di cespugli risuonava con ritmo grave e smorzato una marcia funebre. E ancora si era rimossa la grande pietra sepolcrale con lo stemma di famiglia in rilievo, e ancora, al margine delle piantagioni spoglie, i cittadini circondarono la fossa murata nella quale Thomas Buddenbrock raggiungeva i genitori. Lì erano raccolti gli uomini autorevoli e danarosi, stavano a capochino, malinconici, e fra loro i consiglieri comunali che si riconoscevano dai guanti bianchi e dalle cravatte. Dietro si accalcavano i funzionari, gli operai, gli impiegati, gli scaricatori. La musica tacque, parlava il pastore Pringsheim, e come l'eco delle sue benedizioni si spense nell'aria fredda, tutti si accinsero a stringere ancora una volta la mano al fratello e al figlio del defunto. Fu una sfilata faticosa. Christian Buddenbrock accoglieva le attestazioni di cordoglio con quella espressione tra imbarazzata e distratta che aveva nelle solennità. Il piccolo Johan, che aveva indossato la spessa giubba da marinaio coi bottoni dorati, stava accanto a lui, teneva fissi a terra gli occhi ombreggiati d'azzurro, senza guardar nessuno, e torceva la testa all'indietro contro il vento con una smorfia di disgusto. La liquidazione degli affari incominciò sotto la guida di Kistenmacher e del vecchio Marcus e si svolse in modo disastroso. Il termine concesso era breve e doveva essere osservato alla lettera, con precisione, e il tempo urgeva. Gli affari in corso vennero sbrigati precipitosamente, con svantaggio. Le vendite affrettate e in perdita si susseguivano. I depositi e le giacenze di merci furono trasformati in denaro con grave danno. E quel che non guastava la troppa fretta del signor Kistenmacher, guastava la troppa lentezza del signor Marcus, del quale si andava dicendo che d'inverno, prima di uscire di casa, non solo scaldava sulla stufa il pastrano e il cappello, ma persino il bastone, e che quando gli si offriva un'occasione favorevole, se la lasciava scappare regolarmente. Insomma, le perdite si accumulavano. Sulla carta, Thomas Budenbrock aveva lasciato un patrimonio di 650.000 marchi. Un anno dopo l'apertura del testamento, si vide che non si poteva neanche lontanamente fare assegnamento su quella somma. Su quella disastrosa liquidazione circolavano voci imprecise ed esagerate, alimentate dalla notizia che Gerda pensava di vendere la sua casa. Si raccontavano cose strabilianti sui motivi che la spingevano a farlo, sulla paurosa riduzione del patrimonio dei Budenbrock, sicché in città poté formarsi a poco un'atmosfera che la vedova del senatore non poteva non notare, dapprima con stupore e sorpresa, e poi con dispetto. Quando un giorno riferì a sua cognata che alcuni operai e fornitori avevano insistito con pessimo garbo perché si saldassero certe grosse fatture, la signora Permaneder rimase a lungo senza fiato e poi scoppiò in una risata spaventevole. Gerda Budenbrock era così indignata che manifestò persino una mezza idea di abbandonare la città col suo Johan, di ritornare ad Amsterdam dal vecchio padre e di riprendere con lui i duetti di violino. Ma ciò sconvolse tanto la signora Permaneder che dovette abbandonare subito il progetto. Come era da aspettarsi, la signora protestò vivacemente anche contro la vendita della casa costruita da suo fratello. Lamentava a gran voce la brutta impressione che quell'atto poteva fare e diceva che sarebbe stato una nuova perdita di prestigio per il nome della famiglia. Tuttavia doveva riconoscere come fosse poco pratico abitare e mantenere ancora quella casa così ampia e lussuosa, un costoso capriccio di Thomas, e che in fondo il desiderio di Gerda di prendersi una comoda villetta fuori porta tra il verde non era poi ingiustificato. Kistenmacher provvide all'acquisto della casa nuova, una graziosa villetta che costò forse un po' troppo, ma situata com'era fuori porta su un viale di ipocastani e cinta da un bel giardino e da un orto, rispondeva ai desideri di Gerda Budenbrock, la quale nell'autunno del 76 vi si trasferì col figliuolo, con la servitù e con una parte dell'arredo, mentre un'altra parte, tra i lamenti della signora Permaneder, dovette essere lasciata e passare nelle mani di un vecchio scapolo. E questi non furono i soli mutamenti. La signorina Jungmann, Ida Jungmann, che da 40 anni era in casa Budenbrock, lasciò il servizio e ritornò al suo paese nella Prussia occidentale per trascorrere gli ultimi anni di vita con certi parenti. Per dir la verità, fu licenziata dalla vedova del senatore. Cresciuta e fattasi adulta la generazione precedente, quell'anima santa aveva trovato da curare e seguire il piccolo Johan, cui poteva leggere le fiabe dei fratelli Grimm e raccontare la storia dello zio morto di singhiozzo. Ma ora il piccolo Johan non era più piccolo, era un ragazzo quindicenne al quale, nonostante la sua fragilità, ella non poteva essere di grande aiuto. Di Christian si avevano notizie rattristanti. Il matrimonio pareva non avesse avuto buoni effetti sulle sue condizioni di salute. Paurose follie e idee fisse l'avevano turbato ripetutamente e su proposta di sua moglie ed un medico egli si era ritirato in una clinica. Non ci stava volentieri, scriveva lettere lamentose ai suoi e chiedeva con insistenza di essere liberato da quel ricovero dove pareva fosse trattato con molta severità. Ma non fu rilasciato e forse fu un bene per lui. In ogni caso ciò mise sua moglie, nonostante i vantaggi pratici e ideali che doveva quel matrimonio, nella possibilità di continuare senza scrupoli e impedimenti la vita indipendente che aveva condotto prima. Era già cresciuto il piccolo Johan. Aveva 15 anni compiuti e non portava più la marinara danese, bensì una giacca color cannella con la cravatta azzurra picchiettata di bianco. Sul panciotto aveva la lunga e sottile catena d'oro che gli era pervenuta dal bisnonno e all'anulare della destra, un po' troppo larga ma aggraziata, portava infilato l'antico anello di famiglia con la pietra verde che ora apparteneva a lui. Hanno e Kai si incontrarono sulla soglia e scesero insieme giù per l'ampio scalone e attraverso il vestibolo gotico. Tacevano entrambi. Hanno aveva una pessima cera e Kai era soprapensiero. Giunti nel cortile grande, si misero a passeggiare su e giù in mezzo alla folla dei loro compagni di varia età che si rimescolavano rumorosamente sul selciato rosso e umido. «Vedi, Kai, quando è morto il babbo, il signor Stefan Kistenmacher e il pastore Pringsheim si sono assunti il compito di chiedermi ogni giorno che cosa farò. Non lo so, non so rispondere niente, non posso diventare nulla, ho paura di tutto. Ma no, come si fa a scoraggiarsi così, con la tua musica? Che ne faccio della musica, Kai? Non serve a niente, vuoi che vada in giro a dar concerti? In primo luogo non me lo permetterebbero. E poi non ne saprò mai abbastanza. Non so quasi nulla. So soltanto improvvisare qualche cosa quando sono solo. E poi quel continuo viaggiare mi spaventa. Tu sei diverso, hai più coraggio, te la ridi di tutto e hai qualche cosa da opporre a questa gente. Pensi di dedicarti a scrivere e raccontare al prossimo cose belle e meravigliose. Bene, è qualche cosa e certamente diventerai celebre perché sei tanto bravo. Da che cosa dipende? Dal fatto che sei più allegro. Alle elezioni qualche volta ci guardiamo. Pensiamo tutti e due la stessa cosa, ma tu fai uno sberleffo e te ne infischi. Io non sono capace, io ci perdo le forze. Desidero dormire, non sapere più nulla. Desidero morire, Kai. No, io non valgo niente. Non so volere. Non voglio neanche diventare celebre, ne ho paura, come se ci fosse qualcosa di male. Non ne sarà nulla di me, puoi star sicuro. Recentemente, dopo l'ora di dottrina, il pastore Pringsheim ha detto a qualcuno che bisognerà lasciarmi stare, che vengo da una famiglia degenerata. Ha detto così? Domandò Kai con l'anima tesa. Sì, alludeva a mio zio Christian che è ricoverato ad Amburgo. Avrà ragione, certamente. Bisognerebbe abbandonarmi, ne sarei tanto riconoscente. Ho tanti pensieri e tutto mi riesce difficile. Supponiamo che mi tagli un dito, che mi faccia male da qualche parte. È una ferita della quale altri guarirebbero in 8 giorni. Io ci metto 4 settimane. Non vuol guarire, si infiamma, peggiora e mi dà disturbi enormi. Recentemente il signor Brecht mi diceva che i miei denti sono in condizioni disastrose, che quasi tutti sono minati e consumati, senza dire di quelli già estratti. Siamo a questo punto. E con che cosa masticherò quando avrò 30 o 40 anni? Non ho più speranze. Ho capito, fece Kai accelerando i passi. E adesso parlami un po' del tuo pianoforte. Voglio scrivere qualcosa di meraviglioso, di stupefacente. Forse incomincerò subito durante la lezione di disegno. Ti piacerebbe suonare oggi nel pomeriggio? Hanno tacque un momento. Nei suoi occhi era apparso un che di torbido, di confuso, di infiammato. Perché no? Suonerò. Benché non dovrei farlo. Dovrei fare i miei esercizi, ripassare le sonate e poi smettere. Ma probabilmente suonerò. Non posso farne a meno quantunque ciò mi porti di male in peggio. Peggio? Hanno tacque. So che cosa vuoi dire con la tua musica, disse Kai. Poi tacquero entrambi. Erano in una strana età. Kai si era fatto di bragia e guardava a terra senza abbassare la testa. Hanno era pallido, tremendamente serio, e guardava da un'altra parte con occhi velati. e Kai avevano da fare la stessa strada. Andarono dunque insieme coi libri sotto il braccio fino alla villetta rossa fuori porta. Poi il contino Möln doveva percorrere ancora un bel tratto da solo fino alla casa paterna. Non aveva nemmeno il pastrano. La nebbia del mattino si era tramutata in neve che cadeva a gran fiocchi morbidi e diventava fango. Al cancello del giardino di casa Buddenbrock i due giovani si separarono. Ma quando Anno aveva già attraversato metà del giardino, Kai tornò indietro e lo cinse con un braccio. «Non perderti d'animo e fai a meno di suonare», disse sottovoce. Poi la sua figura snella e trasandata scomparve nel nevischio. Anno lasciò i libri nel corridoio, sul piatto che l'orso teneva fra le zampe, ed entrò nel salotto per salutare la mamma. Ella stava sulla sedia a sdraio e leggeva un libro dalla copertina gialla. Mentre egli camminava sul tappeto, lo guardò con quegli occhi castani e vicini tra loro, circondati di ombre azzurrine. Quando se lo trovò davanti, gli prese la testa fra le mani e lo baciò sulla fronte. Egli salì nella sua cameretta dove Clementine gli aveva preparato un po' di colazione, si lavò e mangiò. Quando ebbe finito, cavò dal cassetto un pacchettino di quelle forti sigarette russe che anche lui conosceva ormai e si mise a fumare. Poi sedette all'armonio e suonò alcune pagine molto difficili, severe, fugate di Bach. Alle 4 pranzarono. Gerda e il piccolo Johan erano soli con Clementine. Poi nel salone Hanno fece i preparativi per la musica e seduto al pianoforte aspettò sua madre. Eseguirono la sonata opera 24 di Beethoven. Nell'adagio il violino cantava come un angelo. Tuttavia Gerda non era soddisfatta e, toltosi il violino dalla spalla, lo guardò seccata e disse che esso non era in vena. Rinunciò a suonare e andò di sopra a riposare. Anno rimase nel salone. Si accostò alla porta vetrata che dava su una piccola veranda e guardò per alcuni minuti il giardino bagnato. Poi si ritrasse d'un passo. Quindi tirò con forza sulla vetrata la tenda color crema, di modo che la stanza fu immersa in una penombra giallina, e corse al pianoforte. Là stette ancora un po', e mentre il suo sguardo fisso su un punto indeterminato si rabbuiava a poco, si annebbiava, si velava, incominciò una delle sue improvvisazioni. Stava seduto e proteso sui tasti, con le labbra schiuse e lo sguardo lontano, e i capelli castani gli coprivano le tempie con morbidi riccioli. Che cosa accadeva? Che esperienze faceva? Erano forse terribili ostacoli superati, draghi uccisi, pareti rocciose scalate, fiumi attraversati a nuoto, vie percorse tra le fiamme. Come una risata stridula o una promessa incomprensibile di beatitudine, il primo motivo vi si intrecciava, quel tema insignificante, quel passaggio da una tonalità all'altra. Anzi, era come se esso incitasse a sforzi sempre nuovi e violenti. Folli rincorse di ottave lo seguivano terminando in un grido, finché si iniziò un crescendo lento e incontenibile, un'ascesa cromatica piena di irresistibile nostalgia, violentemente interrotta da pianissimi improvvisi, paurosi e stimolanti, che erano come un subito cedimento del terreno sotto i piedi e uno sprofondare nel desiderio. Anno stette un momento silenzioso, il mento sul petto, le mani in grembo. Poi si alzò e chiuse il pianoforte. Era pallidissimo, senza forza nelle ginocchia, e i suoi occhi ardevano. Passò nella stanza attigua, si coricò sulla sedia a sdraio e rimase così, a lungo, senza muovere neanche un dito. Più tardi andò a cena e poi fece con sua madre una partita a scacchi che non fu vinta da nessuno dei due. Dopo mezzanotte se ne stette ancora in camera sua, alla luce d'una candela, davanti all'armonio, e suonò mentalmente, dato che non doveva far rumore, animato dalla buona intenzione di alzarsi l'indomani alle 5:30 per fare i compiti di scuola più importanti. Questa fu una giornata della vita del piccolo Johan.